estendi la mia pianura e ci affondi coi battiti tuoi. Togli la sicura e mi rincorrerai. Allenta la tua cintura che non ristretta i miei fianchi. Vento dell'incoscienza e del buio che in noi. Sospingi la mia certezza e i dubbi mi travolgerai. Smorza la mia fiamma che riaccenderai. Addensa nella mia arsura, coraggio, vento della paura. Tu sei il canto degli angeli, da non credere mai. Coro dei inferi, chiuso in noi. Danza le foglie che poi spazi via, solca le mie dune che disperderai. Attendi senza premura, ma rendi nell'avventura poi. Vento dell'impazienza che prendi e che dai, che cingi la mia speranza nei fiori che mi strapperai. Tingi la mia faccia di stanca allegria, spalanchi la notte scura, ma ti nascondi nella fessura. Dentro noi, nell'abisso degli anni.